Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Allora, prima l'hanno resa obbligatoria, poi non più, ma alcune regioni hanno continuato ad applicare l'obbligo. Adesso sembra che sia tornata ad essere obbligatoria. Di cosa stiamo parlando? Parliamo dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, quello con cui si classifica l'efficienza energetica dell'edificio, classe A, classe B, classe C, eccetera, eccetera. È tornato obbligatorio, a quanto pare, nelle compravendite di immobili. Allora, adesso cerchiamo di fare un po' di chiarezza con l'aiuto di Daniele Costanzo, che è vicepresidente di ACE, l'associazione certificatori energetici. Buonasera Costanzo. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Dunque Costanzo, partiamo dalle novità contenute nel decreto legislativo del 3 marzo, che è quello che in qualche modo reintroduce questo obbligo. Allora, bisogna fare un passo indietro però. Teniamo conto che questa materia è normata in concorrenza tra Stato e Regioni. E come tutte le cose in materia di concorrenza sono abbastanza, spesso sono un po' un casino, diciamo, per usare un termine tecnico. Esatto, quindi abbiamo delle regioni che avevano comunque mantenuto l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita, altre invece che si erano rimesse alla normativa nazionale. Quindi in realtà la situazione era appunto un po' confusa, proprio perché in contesti locali cambiavano le modalità, certo, di applicazione. Quindi cosa è successo? È successo che a fronte anche, questo bisogna dirlo, di un esposto presso l'Unione Europea, diciamo il legislatore ha reintrodotto questo legame tra il chi vende un immobile e chi lo acquista, non più andando a sindacare nel momento dell'atto di compravendita, ma imponendo che questa informazione sulla classe energetica, la prestazione energetica, avvenga nel momento in cui appunto l'immobile viene messo sul mercato, potendo in questa maniera anche indirettamente quindi indirizzare un mercato immobiliare. Maggiormente in realtà, maggiormente, perché quello che succedeva è che spesso il giorno in cui si andava a firmare ci si trovava questo foglio che se no si riusciva insomma a scorgere, no? Quindi l'obbligo in questo momento è di indicare la classe energetica nelle inserzioni immobiliari. Esatto. È così, giusto? Esattamente, esattamente. E c'è anche una bella multa se uno non, come dire, mette in pratica. Esatto, quindi sono comunque previste delle sanzioni che quindi in questo modo vanno a colpire tutte le parti. Dunque, al di là dell'aspetto normativo c'è un problema di qualità delle certificazioni che dipende, come dire, dalla garanzia che dà chi le fa e anche dal metodo che applica. Ecco, sul metodo ci sono per esempio insomma dei dubbi, delle critiche. Per esempio sembra che questi algoritmi che vengono utilizzati funzionino bene con certi edifici e male con altri edifici, per esempio quelli storici ci pare che li valutino in modo abbastanza impreciso. Quanto, allora, le chiedo, possiamo fidarci della classificazione energetica e che valore dobbiamo attribuire a questa classificazione, classe A, classe B o classe C? Allora, la classificazione energetica è sicuramente comunque figlia di un processo di valutazione standard delle prestazioni di un immobile, di un impianto, di un sistema impianto. Cosa vuol dire standard? Vuol dire considerare temperatura interna o esterna, diciamo forfettizzata, piuttosto che le caratteristiche dei materiali o appunto degli elementi da certificazione di comportamento e non ovviamente da dettaglio del singolo elemento, del singolo componente. Questo perché in ogni caso la certificazione energetica è comunque una procedura, quindi poi la classificazione di buona precisione pur nei limiti intesi dalla direttiva europea, vuol dire che ovviamente deve essere una procedura ripetibile, trasparente e via discorrendo. E anche relativamente semplice, tutto sommato, semplice, no? Deve essere semplice, quindi bisogna distinguere quello che può essere una prestazione energetica data da un processo di progettazione estrema rispetto a quello che è una classe energetica data appunto da valutazioni che dire semplificate ma non banalizzate, ecco questo voglio dire. È vero o non è vero che funziona non proprio nello stesso modo su tutte le tipologie di edifici, la procedura di calcolo adottata? Ma sicuramente sì, ci sono delle caratteristiche date proprio dal comportamento dinamico degli elementi, quindi questo può essere in effetti assodato come concetto. Però torno a dire il fatto della certificazione energetica, quindi la classificazione come sistema di confronto standard. Ok, d'accordo. Per ecco, perfetto. E poi invece c'è, diciamo, la questione dell'affidabilità dei certificatori. il problema che viene sollevato è che in molte regioni, insomma, certificano un po' tutti, forse non tutti hanno invece le competenze, la preparazione necessaria. Spesso si fanno consulenze addirittura via internet, vengono compilati i certificati energetici per telefono, queste sicuramente sono robe che non funzionano. Ecco, lei come si pone rispetto a queste problematiche e voi come associazione? Diciamo che sicuramente il problema della qualità delle certificazioni è molto presente. Ma perché? Perché più che andare a definire elenchi, albi, cosa che comunque non è consentita, ma diciamo anche elenchi di esperti, sicuramente la parte carente è l'attività di controllo da parte dell'ente, che deve essere comunque, e tanto è prevista per norma, deve essere comunque garantita a tutela di tutti. Cioè lei dice, a un certo punto bisogna che degli ispettori vadano a ricontrollare delle case per le quali è già stata fatta la certificazione energetica, a vedere se il certificatore aveva fatto bene il suo lavoro, insomma. Sì, sicuramente questa è la strada che tanto è stata avviata in via sperimentale della Regione Lombardia e adesso verrà, penso, riproposta con la riattuazione dei decreti specifici. Ecco, proprio in Lombardia è venuto fuori un dato abbastanza evidente, vero? Sì, nella procedura sperimentale di controlli su appunto 40 interventi verificati, il 40% di questi avevano dei limiti ritenuti non adeguati alle aspettative. Tenga conto che i controlli possono non anche essere tecnici e quindi dare nel dettaglio, possono anche essere formali solo sul rispetto dei ruoli. La terzietà, per dire, già un forte deterrente. Grazie Daniele Costanzo. Grazie a lei, grazie a tutti, buonasera. Ci fermiamo qui, torniamo domani per parlarvi di aree produttive ecologicamente attrezzate. Buona serata.